Italia. Il nostro primo campeggio fu piacevole. Emergendo dai sacchi a pelo, fummo accolte dallo scintillio diamantato della tenda grigio-azzurra, velata di leggera rugiada. Lievi e dorate come seta, tenere foglie tremavano quasi in un sussulto di pudore dinanzi al giovane sole. Anche il ruscello scendeva in tanti rivoli d'acqua nuova, neve appena sciolta nei monti sopra Domodossola. Nessuno era venuto ad arrestarci, né un carabiniere, né il proprietario del terreno, contrariamente agli avvertimenti minacciosi di un giovanotto dall'aria supponente che la sera prima aveva cercato di farsi notare da alcune contadine tutte vestite di nero. Essi avevano osservato timidamente il funzionamento del nostro fornellino a benzina e, sentendo il denso aroma del Nescafè, avevano colto l'occasione di dirci che in Italia non si trovava più caffè. Il caffè, la bevanda per eccellenza del paese. Una donna aveva preso tra le pieghe del grembiule un pugno di grano tostato ed esclamato: «Lo sostituiamo con questo!» A mezzogiorno già pranzavamo sulla riva del lago di Garda. Ero stata invitata da amici inglesi a passare l'estate in una casa in quelle vicinanze e mi ritrovai a paragonare l'incerta impresa a cui ci accingevamo ai sereni mesi di lavoro che avrei potuto trascorrere in quel luogo idilliaco. Devo dunque ammettere che sono sempre tentata dalle difficoltà. Non mi piace viaggiare in macchina, soprattutto sulle grandi arterie dove mi sento trasformato in un automa, inebetito dal monotono ronzio del motore, unico suono percepibile. Milano era vicina, ma da quella specie di tavolo da biliardo che era la strada non si vedeva nulla, nemmeno la campagna. Le sole macchine che incontravamo erano tedesche. A bordo viaggiavano donne con il capo avvolto da foulard, il volto arrossato dal vento e dal sole troppo forti. Fermandoci a un distributore di benzina e ricordai di esservi già stata 2 anni prima al ritorno da un viaggio in Turchia. Era notte ed eravamo a corto sia di benzina sia di denaro e non potevamo acquistare valuta italiana per via di strani regolamenti. Con tono depresso avevo chiesto ai miei compagni se mai un angelo sarebbe venuto in nostro soccorso. L'ora era tarda, mezzanotte, il traffico nullo, ma proprio in quel momento una macchina si accostò a noi. Mi rivolsi senza indugio al proprietario domandandogli un prestito e assicurandogli che l'indomani al nostro arrivo a Ginevra sarebbe stato rimborsato con un vaglia. Ebbe fiducia e pagò per noi. Quando ci porse il suo biglietto da visita, leggemmo con sorpresa che il suo nome era Angelo. Quasi sempre guidava Cristina, forse perché insofferente alla mia scarsa dimestichezza con il volante o più semplicemente perché preferiva rodare lei stessa la nuova Ford. Fummo costrette a fermarci per lasciar passare una lunga processione. Uomini in nero, ragazzine in bianco, il clero in rosso scarlatto. Le sante effigi dorate sulle loro portantine e dietro le donne che seguivano schive. La strada era disseminata di fiori appassiti o calpestati. Sembrava una scena orientale, con quella gente stanca che camminava trasognata come in certe cerimonie viste in Cina o in India. I dintorni di Trieste erano deturpati da immensi duce su tutte le pareti rocciose che fiancheggiavano la strada. Giunte in città, ci concedemmo il piacere di un gelato sulla vecchia banchina del porto dove i pescatori avevano teso ad asciugare le reti rossicce. Davanti a noi si stendevano le verdi acque dell'Adriatico. Nella mia memoria, questa piazza, lastricata di grandi pietre, rimarrà per sempre associata alle parole di Cristina. A Trieste si era imbarcata tempo prima per il vicino Oriente dove doveva sposare Francis. Avevo la sensazione di andare verso una prigione, raccontava con tono distaccato. Non so perché, ma ero troppo debole per liberarmi allora quando era possibile ancora. Non mi era difficile immaginare quanto improbabile fosse per quelle due persone diventare una coppia. Finché si vive soli è possibile essere egocentrici senza inconvenienti, ma nel matrimonio è quasi inevitabile che uno dei due si annulli nell'altro. Cristina non viveva che per scrivere, mentre Francis aveva imparato a stabilire compromessi tra la vita privata e il lavoro da diplomatico. Cristina non poteva concepire una simile forzatura nella sua esistenza. Sapeva che la vita d'ambasciata si svolge come in vetrina, che il suo fascino è quanto mai effimero. Francis le aveva assicurato che non avrebbe dovuto in nessun modo cambiare le proprie abitudini. Si erano incontrati per la prima volta a Teheran, dove il giovane era segretario d'ambasciata. Cristina invece lavorava con alcuni archeologi a Rei, vicino alla capitale. Amavano parlare, discutere insieme, spesso fino a notte tarda. La gente cominciò a chiacchierare. La moglie del ministro, che ospitava la mia compagna durante i suoi soggiorni in città, le consigliò di sposarsi o di diradare gli incontri. Sembrava sciocco reprimere una simile amicizia e i due giovani optarono per la prima soluzione, ritenendola la migliore, anche se entrambi erano ben decisi a salvaguardare la propria indipendenza. Poco dopo il matrimonio, però, Francis era stato promosso incaricato d'affari e come moglie del numero uno, Christine era tenuta a partecipare ai ricevimenti. A prezzo di immensi sforzi, ella provò maldestramente o credette di provare al massimo delle sue capacità a recitare la propria parte in questo genere di vita per lei esecrabile. Accantonò il suo lavoro, conscia che uno sbaglio del cuoco poteva far perdere di credibilità al paese rappresentato per tempo indefinito. Cristina pensava che il marito non notasse la sua crescente disperazione, egli non manifestava né compassione né incoraggiamento. E neppure comprensione per lei che soffocava dietro la vetrina. La sua esistenza si trascinava in un clima di crisi latente. Sorridere su se stessa sarebbe forse stato un modo di salvarsi, ma per chi vive intensamente il problema della vita è così urgente da non poter essere mitigato dall'ironia. E Cristina si ribellò, si lasciò andare a un esaurimento nervoso. Secondo il racconto che mi fece, ella credette in quel momento di essersi sposata soprattutto per liberarsi dalla madre. Penso che l'antagonismo fra le due donne affondasse in parte le sue radici nel grande amore provato da Cristina bambina per la madre, allora celebre amazzone. Con gli anni tale sentimento era diventato più complesso e né l'una né l'altra avevano saputo adeguarsi a una situazione mutata. Mia madre aveva predetto un disastro se mi fossi sposata e così è successo. Ma la stretta osservanza cattolica della famiglia di Francis non ci permetteva altra soluzione. Era infantile da parte mia agire perpetuamente contro mia madre, contro colei che mi conosceva meglio di chiunque altro. Non avevo nessuna speranza di liberarmi mai di lei, nessuna speranza di essere semplicemente me stessa. Da quel momento Cristina visse un nuovo episodio di quel particolare inferno che con tanta abilità creava intorno a sé. Alcuni dettagli a tale riguardo mi fecero capire come la fame o l'indigenza non sono da temere quanto certi tormenti dello spirito. Le sue angosce furono aggravate da una ferita alla gamba che si era infettata e da un'amicizia eccessiva per una bella giovane turca malata senza speranza. Un giorno, finalmente, la mia compagna reagì e decise di affrancarsi dai dottori e dalle loro droghe. Raggiunse così Marjorie nel suo accampamento sugli alti pendii del Damavand, là dove i cavalli corrono liberi, dove i torrenti sono cristallo puro, in movimento, e l'aria splende come sulle distese di neve della sua patria. Lassù, il silenzio suggerì al suo orgoglio dilaniato che non tutto era perduto, ma che se voleva riannodare i legami con la vita avrebbe dovuto farlo con le sue sole forze. 3 anni dopo, Cristina si liberò infine da quell'incubo vissuto in Persia, scrivendo un lungo poema in prosa. Durante una mia visita, mentre era in convalescenza a Neuchâtel, l'avevo vista, preda della sua ispirazione, nascondere ai dottori le sigarette e la fedele caffettiera. Quel poema splendido ed esaltato la sfiniva, rigenerandola al contempo. Si prendono le distanze dalle proprie malattie in virtù dei libri, ripetendo e riproducendo ancora una volta le emozioni provate al fine di dominarle. Aveva scritto David Herbert Lawrence ed era vero per Cristina. Avendo così esorcizzato il passato, si sentì ritornare a uno stato virginale e di nuovo pronta a offrirsi alla vita. Ma perché non accettare ritmi meno violenti? Vi era forse una qualche possibilità che la mia maggiore normalità potesse diventare, anche se soltanto un po' contagiosa? Prima di lasciare Trieste, temendo guasti al motore e quindi soste forzate nel deserto, comprammo dei cappelli di paglia. Ostentando il mio acquisto da 40 soldi, dissi che sarebbe stato perfetto anche per un garden party esclusivo. Ma Cristina non sorrise alle mie parole scherzose. Si era accorta proprio allora di aver perso la chiave della macchina. All'improvviso la nostra Ford diventava inaccessibile al pari della lussuosa Lancia parcheggiata accanto. Non perdemmo la calma di fronte al primo inconveniente che coinvolgeva entrambe. Con il cuore che batteva ritornammo sui nostri passi, prestando la massima attenzione, e nel grande negozio gremito di gente, la fortuna ci venne incontro. La chiave era ancora lì, piccola e piatta, sul pavimento. Sollevate, lanciammo allora l'automobile all'assalto della strada diretta verso il carso pietroso, piana, grigia e triste, crivellata di crateri beanti. Quale esaltazione! Correre incontro alla primavera e al lungo viaggio, sentendosi in grado di affrontare la fatica di migliaia di chilometri, in grado di campeggiare, di mangiare, di fermarsi o di cambiare itinerario in piena libertà. Un'emozione ancora più intensa si può forse provare lasciando un porto a bordo di un'imbarcazione propria. L'immensità del mare si offre senza limite alcuno e nessuna rotta tracciata si impone alla chiglia. O nell'aria dove gli uccelli furono a lungo i soli a vivere tale miracolo. Ma cominciavo allora a scoprire ciò che l'avvenire non avrebbe che confermato. Il viaggio nel mondo obiettivo non mi catturava più completamente. Per la prima volta capivo che la realtà è meno reale delle sensazioni che stimolano la nostra vita interiore. La percezione della dura prova a cui Cristina si sottometteva occupava interamente i miei pensieri. Il nostro stato d'animo, sempre mutevole, condiziona, trasforma perfino i paesaggi e le persone incontrati. Jugoslavia. Appena oltrepassato il confine jugoslavo, raffiche di pioggia che sferzavano rabbiosamente la folta vegetazione delle colline ci costrinsero a fermarci in un villaggio lungo la Sava in piena. In quella località, un macellaio, il signor Medven, affittava camere agli stranieri. Malgrado il cognome slavo, si dichiarava tedesco e rimpiangeva la Kultur dell'Austria, dove aveva vissuto fino a quando l'Anschluss non l'aveva obbligato a ritornare nel paese natale. La moglie raccontava che durante il passato regime imperiale i ragazzi ritornavano dal servizio militare prestato nel nord, trasformati in signori. Ma oggi gli jugoslavi li rimandano sprovveduti come quando sono partiti e neppure in grado di risollevarsi dalla loro miseria. L'indomani ci trovavamo sulla bella piazza del mercato di Zagabria, dove non si notavano segni di povertà. Fiorenti ragazze di campagna con camicette ricamate reggevano ceste sul capo e il loro ancheggiare era accentuato dalle gonne voluminose. Immensi ombrelloni davano alla piazza un'atmosfera allegra. Sotto la loro ombra si innalzavano piramidi di lucide ciliegie nere, di fragole rosse e polpose, di merletti candidi, di oggetti in cuoio ornati di motivi floreali e le verdure. Per mesi non ne avremmo viste di simili. Ci avevano avvertite che più a sud un'inondazione aveva divelto la strada e attraversando Kloster ci venne in mente di acquistare una pala. Nel medesimo negozio vendevano bricchi di smalto blu che comprammo. Mi sono fedelmente servita del mio per anni e ancora oggi vi faccio il tè. Quell'oggetto pendeva, anonimo e banale, appeso al soffitto ed era l'ultimo mio acquisto in un'Europa ancora in pace. Lungo la strada la gente ci indirizzava spesso il saluto hitleriano. Un maestro al nostro passaggio alzò il braccio di scatto, subito imitato dalla scolaresca. Ci credevano tedesche. Dovevamo sentirci in ogni caso gratificate. O significava semplicemente che su questa strada viaggiavano soltanto tedeschi. Oppure era perché non avevamo ancora lasciato quella parte del mondo popolata un tempo da coloni tedeschi per volontà dell'imperatrice Maria Teresa. Eppure, su 13 milioni di jugoslavi, i tedeschi non sono che mezzo milione. Quella sera stessa, al di là di Vukovar, sulle rive del Danubio, dove campeggiavamo, fu ancora un tedesco a rivolgerci la parola, un solido e biondo traghettatore. La massa d'acqua del fiume scivolava, grigia, formando un largo e magnifico nastro di trasmissione che trasportava immobili chiatte verso un lontano porto di mare. In tutte le contrade che avremmo attraversato ci sarebbe stato possibile osservare il metodo tedesco di penetrazione basato su un abile sistema di scambi. Acquistando la maggior parte dei prodotti del paese, nominalmente a un prezzo elevato, la Germania inviava di rimando macchinari valutati in modo da rientrare largamente nelle spese. Tale procedimento metteva automaticamente fuori mercato i concorrenti che non potevano essere sostenuti dai propri governi. Già dalla pianura jugoslava sentivamo avvicinarsi l'Oriente, con i suoi spazi liberi e non così strettamente misurati come nell'Europa occidentale. Vastità dei campi, dell'orizzonte, ampiezza della triplice strada, fiancheggiata su entrambi i lati da un sentiero polveroso percorso da carrette, svolazzare dei camiciotti maschili, delle gonne, giovani che montavano a pelo piccoli cavalli simili a pony mongoli, ragazze che lavoravano a piedi nudi nei campi e tanti uomini che non facevano nulla. Immensi bilancieri in equilibrio sui pozzi si disegnavano sullo sfondo del cielo chiaro. Vacche bianche con le corna a lira pascolavano placide e dignitose, simili alle loro sorelle sacre dell'India. In villaggi che ricordavano quelli russi, i maniscalchi ferravano le bestie immobilizzandole sotto una traversa orizzontale per mezzo di due sottopancia, così come si usa nel Turkestan. Ogni fattoria aveva nell'aia un piccolo forno per cuocere il pane, una sorta di tunnel di terra essiccata simile a una tomba islamica. Ricordavano la Russia anche le insegne in cirillico sopra le porte delle botteghe e la doppia croce delle chiese ortodosse. Talvolta gli uomini portavano il fez rosso o il berretto nero d'agnello e i gilet ricamati di montone che sembravano venire dall'Afghanistan. Incrociammo una sposa con un'acconciatura di nastri e fiori, un grembiule dai disegni geometrici simile alla grande pettorina degli abiti indossati dalle donne Brawi nel Baluchistan. Identica è la sensazione di energia gioiosa che si trae da entrambi i costumi. Con pari audace simmetria, i nomadi tessono i loro tappeti. Quei motivi mi colpiscono intimamente, convincendomi di dover essere già vissuta tra quei popoli in un tempo lontano. A Belgrado, mentre prendevamo il caffè nel dehors di un ristorante, una folla di gente gremiva le vie in attesa di una processione. Scarmigliati, cenciosi, lo sguardo vivace, attenti e rapidi come scoiattoli, i ragazzini sgusciavano tra le gambe degli adulti, ragazzini così simili ai monelli russi. E più tardi, quando vedemmo centinaia di carrette in partenza da Belgrado, sembrò ripetersi la scena della migrazione dei kazaki di un tempo che lasciavano Alma-Ata. Opposti segni mi avevano invece colpito quando 2 anni prima ero arrivata a Belgrado proveniente dall'Asia centrale. Cinema, giornali, sbarre, marciapiedi, fili elettrici. Al crepuscolo ci fermammo nei pressi di un campo di zigani avvolto nel fumo. Tutti si fecero subito intorno a noi, con i loro volti aguzzi, gli occhi penetranti, stranieri in Europa. Senza indugio ci chiesero delle sigarette. Costoro sono i soli esseri che io conosca a mendicare con dignità, come se ricevere o no l'elemosina fosse loro tutto sommato indifferente. Mi chiedo per quale ragione queste genti mi attirino sempre con tanta forza, persino nel Turkestan, dove non si può certo dire che si evochino remote contrade. Forse perché rappresentano il simbolo di ciò che avrei voluto essere, sprovviste di ogni bene, intensamente vive, senza padroni, senza limiti imposti dalla nazionalità, perché la loro patria è ovunque. Non credo che gli zigani tedeschi o russi potrebbero battersi negli eserciti dei propri paesi. Se questo accadesse, e beh, significherebbe che essi hanno abbandonato le loro vere tradizioni di indipendenza. I francesi li chiamano bohemien, gli ungheresi zigani, ma essi si definiscono semplicemente romani, uomini. Li incontreremo ancora in Afghanistan con il nome di Yat e più a sud con quello di Lur. Nulla di preciso si sa sulle loro origini, benché alcuni libri di storia riportino che nel V secolo il re sassanide Bahram Gur attaccò gli unni bianchi lungo le frontiere dell'India, ricevendo come ricompensa dal re indù le province di Sindh e di Makran. Di ritorno in Persia, il re portò con sé 12.000 lur perché cantassero e ballassero per i suoi sudditi. All'inizio dell'VIII secolo, numerosi Yat deportati dalla zona dell'Indo nei territori intorno al Tigre divennero banditi di strada per finire cacciati oltre la frontiera turca dal califfo Ogiaif che aveva tagliato loro la ritirata. A Baghdad Vestiti dei costumi tradizionali e con i loro strumenti, furono esibiti come suonatori su imbarcazioni ed è senza dubbio a loro che si deve la presenza di bufali nel vicino Oriente e nei Balcani. Ancora oggi si ritrovano parole hindi nella loro lingua. Quella sera il nostro campeggio era tutto pervaso dal profumo intenso del fieno appena tagliato e dai fruscii dell'erba alta nel vento. Ai piedi di un muro c'era una fontana dove ci bagnammo non appena l'oscurità fu sufficiente a proteggerci. Un prato in pendio si stendeva sotto di noi tra due file di alberi magnifici e frondosi. Cristina sembrava rivivere. Benché semplice, la nostra cena fu internazionale. I maccheroni venivano da Trieste, il burro da Treviso, nelle cui vie strette e ombrose non avevamo visto una sola donna, come d'altronde nei caffè. Il purda in Italia sembrava essere altrettanto rigido di quello di Kabul. Il pane, sulla cui crosta era impressa l'impronta di un cuore, era nero, rotondo, pesante, appena lievitato e così compatto che il coltello gemeva nel fenderlo per tagliarne una fetta. Quel cibo saporito di Montanari era preparato una volta al mese a Semplon Village, lassù dove l'erba nuova non era ancora spuntata nei campi ancora bagnati. Soltanto a Costantinopoli finimmo il nostro pane svizzero. I contadini, intenti a voltare il fieno, ci risvegliarono, dandosi la voce attraverso il vallone, gridando a pieni polmoni, cantando lieti nell'alba splendente. Con abilità e ritmo facevano oscillare la falce sotto cui cadeva a ogni movimento le andane fiorite a forma di mezzaluna. Richiami acuti, uccelli in volo verso il sole, danze ininterrotte di falci possenti, uomini inebriati dall'allegria di un giorno nuovo. La scena sembrava il corrispondente mattutino delle danze del principe Igor, quando nella notte il principe balla intorno al grande fuoco. In quello stesso giorno attraversammo Jagodina. All'uscita del villaggio un gruppo di soldati faceva le esercitazioni sulla china di una collinetta. Dalla nostra macchina li vedemmo prima dall'alto e poi dal basso. Il loro ufficiale, vestito di bianco e con la spada che toccava terra, era intento ad assaporare un gelato di colore rosa e ci indirizzava grandi saluti con la mano. Finalmente avevamo lasciato alle nostre spalle gli uomini che sbattono i tacchi alzando il braccio destro. Eravamo talmente prese da quello spettacolo che rischiamo di investire un'oca immobilizzata dalla paura con una zampa a mezz'aria. La nostra vita a due era incominciata qualche giorno prima e ancora ci osservavamo. La mia compagna non soffriva di manie. Pulire una pentola o spegnere il lume non la disturbava, non si intestardiva a finire ciò che stava facendo se qualche cosa di urgente impelleva, come un fornellino a corto di benzina che esigeva cure immediate. Sapeva imballare e caricava con grande razionalità la macchina. Imparai ben presto a non ostacolare il suo frequente bisogno di sigarette e di caffè. Dormiva male e la sua magrezza estrema le impediva di abituarsi alla durezza del suolo. Le mostrai come coricarsi sul fianco con il ginocchio destro piegato ad angolo retto, il corpo inclinato sulla gamba sottostante. Non volevo passare per una troppo delicata. Perché parlate della mia anca contusa quando voi non vi lamentate di nulla? Ma a me piace dormire spartanamente, fu la mia risposta. A casa ho messo un asse sul letto per non sentire la mia lombaggine. Sorrise. Aveva creduto fino a quel momento di dover rivaleggiare con me. Avevamo deciso di osservare alcune regole per facilitare il nostro viaggio. Tenda e cena dovevano essere pronte prima del buio. Bisognava dichiarare francamente ogni eventuale stanchezza, dato che non godevamo né l'una né l'altra di salute perfetta. Io avevo un dolore cronico alle vertebre. Le tappe previste erano suscettibili di radicali cambiamenti. Importava soprattutto viaggiare con intelligenza, rendendosi conto delle trasformazioni che differenziavano un paese dall'altro. Eravamo intenzionate a fermarci ogni qualvolta lo desiderassimo. Una libertà che implicava un costante e attento controllo dei nostri 18 cavalli. Molti automobilisti guidano come se fosse un crimine interrompere quella trance generata dal perpetuo slancio degli 80 km orari. Cadono in uno stato tale da perdere ogni iniziativa, fuorché quella di andare sempre avanti, sempre avanti. È più facile acchiappare la luna nel pozzo che farli retrocedere di 300 metri. Il silenzio in risposta a questa richiesta sarebbe di poco meno indignato che se si proponesse loro di spingere a mano la macchina. Noi, per contro, non volevamo permettere alla velocità di erigere un muro che ci isolasse dalla vita dei luoghi circostanti. Brusii di voci, profumi di spezie sconosciute provenienti da qualche fattoria, aliti freschi di brezza accanto alle fontane. Questo sarebbe stato il nostro viaggio e non quello della macchina. Descrissi a Cristina il mio stupore quando a Kabul avevo incontrato la baronessa Blixenfineke, appena arrivata da sola dalla Svezia. Approfitto per dire che una donna, anche non accompagnata, non corre nessun pericolo in Afghanistan, purché sia vestita con decoro. La mia storia deluderà certamente coloro che si aspettano resoconti di avventure. Dopo aver gabbato i gendarmi iraniani che cercavano di fermarla, la baronessa aveva percorso il tragitto in tempo record. Ma aveva visto poco, non si era fermata in nessun luogo e le sue fotografie non mostravano che una Ford sulla sabbia, nell'acqua, tra la folla, nel deserto. Così, quando mi invitò ad accompagnarla, rifiutai. Mi sentii in dovere di comunicarle che mi sembrava un vero peccato per lei non approfittare di un'automobile tanto splendidamente adatta a percorsi asiatici con cui avrebbe potuto recarsi in quegli angoli remoti dove vivevano tribù misteriose in via di estinzione. Eva Blixenfineke che viaggiava con una lettera di presentazione che diceva all'incirca così: "Io, Sven Hedin, sarò grato per l'aiuto amabilmente accordato alla mia figlioccia, detentrice di questa missiva, la quale è diretta in Cina passando, se le sarà possibile, per il Turkestan sovietico. Come ricompensa mi impegno a inviare una lettera di ringraziamento scritta di mio pugno." Sven Hedin era un famoso esploratore svedese. Avevamo dunque deciso di non essere schiave della nostra Ford. Gli eventuali guasti non dovevano angustiarci più di tanto. Il nostro primo interesse era per ciò che vedevamo e non per il veicolo che ci trasportava. In caso di rottura della macchina, avremmo continuato il viaggio servendoci di mezzi locali. Nondimeno, anche se parlerò poco del terzo membro della nostra spedizione, il lettore non deve immaginare che il corso del destino si fosse conformato ai nostri desideri o che tutto andasse liscio come se viaggiassimo su un tappeto volante. Cristina guidava a meraviglia, credo di avere già sottolineato le mie carenze a tale riguardo, ma non era sufficiente. Alla partenza ci erano mancati i suggerimenti di mio fratello, grande esperto in questo campo, che si era ammalato proprio in quel periodo. Una seconda ruota di scorta, un portabagagli e un altro serbatoio per la benzina erano stati aggiunti sulla parte posteriore della macchina. Come una fetta di melone troppo maturo, il telaio cominciò a curvarsi non appena ci trovammo sulle strade dissestate della Jugoslavia. Le porte non chiudevano più e il giunto in caucciù che collegava i due serbatoi perdeva talmente che fu necessario eliminarlo. Quando finiva la benzina, la travasavo dalla tanica di riserva aspirandola con un tubo di gomma. Talvolta l'operazione non riusciva e mi ritrovavo la bocca piena di un liquido disgustoso che mi ustionava labbra e gengive, come se il dentista mi avesse passato essenza di garofano. Obbligate a disfarci del portabagagli, fummo costrette a riporre tenda e sacchi a pelo nell'interno del nostro coupé, dove già si accatastavano bidoni d'acqua, una cassetta di pronto soccorso, valigie, macchine da scrivere, una cassetta degli attrezzi, molle a balestra di ricambio, casse di pellicole per i nostri cinque apparecchi, zaini, batterie da cucina e provviste. Che carico! E che spesso strato di polvere ogni sera! Al più piccolo avvallamento la macchina sobbalzava mentre nuvole di pulviscolo salivano dritte su per le nostre povere narici. Mi chiedo perché i carrozzieri costruiscano le Ford immaginando sempre le loro decapottabili deluxe sfrecciare su un liscio nastro d'asfalto. Persuase di agire saggiamente, decidemmo di fare riparare le porte e revisionare la macchina a Sofia, dove abitava l'amica di Cristina, Marjorie, che forse avrebbe potuto ospitarci, se soltanto avessimo continuato a campeggiare, evitando con cura le città.